è inammissibile avere questi scontri verbali in una situazione del genere. Qui si tratta di cercare di dare un contributo al sistema, perché noi dobbiamo pensare non soltanto alla Serie A, noi dobbiamo pensare anche alla Serie B, al calcio minore, che è una situazione molto grave. Deve far pensare anche a noi dirigenti, e un giusto ridimensionamento credo che possa fare bene. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E il nostro obiettivo poi nella vita, io credo che siano importanti due cose: avere in testa l'obiettivo e poi cercare di realizzarlo. In testa il nostro obiettivo è andare in Serie A il 30 giugno del 2021, fra un anno e mezzo, e poter giocare nel 21-22 Serie A. Magari non ce la faremo, ma tutto quello che stiamo facendo a Monza è finalizzato a provare a vincere quest'anno il campionato di C, l'anno prossimo quello di B. Io non sarei mai andato in un altro club dopo 31 anni di Milano. Questo non è un altro club, è il club da cui sono partito, è il club della città dove sono nato, e ho rifiutato diverse possibilità di andare altrove. Non ho mai tradito il Milan. Non è che la mia passione per il Milan sia diminuita perché non sono più l'amministratore delegato. Tifoso ero, tifoso e tifoso rimango. Io non cambio certamente squadra. Buongiorno Pierluigi Pardo. Buongiorno. Buongiorno. Saluto anche Giovanni Capuano, che è il nostro corteggiatore più efficace. Ciao Giovanni. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. Dopo averci portato ieri Rocco Stalker, Commesso. Stalker. No, corteggiatore è più bello. Oggi abbiamo un'altra preda di Giovanni Capuano. Adriano Gagliani, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grande corteggiatore, Giovanni Capuano. Anche lei non ha ceduto alle sue lusinghe. Io la ringrazio naturalmente, e parto ovviamente da quanto abbiamo sentito nella nostra copertina. A proposito, grazie a Claudia Schiattone e Roberta Frisani. Monza, obiettivi che li abbiamo sentiti in una dichiarazione di qualche tempo fa, essere in Serie A nel 2021. Ora voi siete in buona compagnia con il Liverpool e il Benevento, mi pare, tra quelli che hanno in mano il campionato e dovrebbero stringere la preda. Sì, certo, non immaginavo il coronavirus, ma mi auguro che possa ancora accadere. Noi abbiamo 16 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, mancano 11 partite alla fine. Mi auguro il campionato possa terminare in maniera regolare, o che ci venga riconosciuto questo vantaggio abissale che abbiamo conquistato sul campo. Giovanni, prego. Ma come si vive in questa situazione? Perché è chiaro che c'è la necessità di fare un ragionamento di sistema, e Adriano Gagliani già da un paio di settimane lo ha fatto, ha dato dei suggerimenti, è uno dei dirigenti più esperti del nostro calcio, e poi ci sono gli interessi legittimi di ciascuno dei club, le aspirazioni nel caso del Monza, del Benevento, del Liverpool in Inghilterra, sono aspirazioni più che legittime. Come si vive con questa doppia ambizione? Ma guardi, intanto fare un qualcosa di sistema è molto molto difficile, io non credo che si possa fare, bisogna guardare caso per caso. In Italia, fra il minimo federale della Serie C e il calciatore che guadagna di più, c'è il rapporto 1 a 2000, io non sbaglio i numeri, quindi 1 a 2000 nessuno l'ha mai scritto, nessuno l'ha mai pensato. Come si possa pensare di trovare una formula che va bene per chi guadagna 26.000 euro lordi e per chi guadagna 60 milioni lordi, francamente non riesco a capire come si possa fare. Cioè, un numero uguale per tutti non è possibile. Bisogna pensare ai calciatori multimiliardari della Serie A, che sacrifici devono fare, quelli che guadagnano molto meno, sacrifici minori, quelli della B ancora minori, e chi guadagna 15.000, 20.000, 25.000. In Serie C, anch'io non lo sapevo perché a Monza non succede, ma ho appreso dal presidente Ghirelli che il 70% dei calciatori della Serie C guadagnano meno di 50.000 euro lordi. per cui per fare un qualcosa di sistema io credo che sia impossibile, bisogna fare qualcosa di mirato. Quanto a questa stagione, e torno lì, poi lascio la palla per Luigi, quali sono le posizioni attuali? È chiaro che nessuno sa niente, ma è la premessa indispensabile su questo pianeta, sulla ripresa. Si dovesse finire qui, accettereste un congelamento della situazione? Beh no, assolutamente. Noi abbiamo vinto questo campionato. Congelamento cosa vuol dire? Rigiocare in Serie C l'anno 21? No, certamente no. In questo caso ricorremo ovunque, perché mancherebbe anche che si ferma il campionato. Tanto io mi auguro che il campionato possa finire nei prossimi mesi, e poi se qualcuno ci supererà e recupererà i 16 punti vada giustamente. Sì. Ma non è che si può pensare che il Monza, dopo gli investimenti fatti, dopo tutti gli sforzi fatti, dopo i 16 punti conquistati, si ferma al campionato e ti dicono allora l'ultimo della Serie B sta in B, il Monza invece sta ancora in Serie C. È chiaro che io ero presidente di Lega nel 2004, di Lega di Serie A e B, allora ricordo il periodo di Daucci, Catania, si giocò a 24. Si pensano, ma come me ovviamente la pensa Vicenza, la pensa la Regina. Chiaramente io sono di parte perché faccio l'amministratore delegato al Monza, ma credo che la logica direbbe, allora caro Monza, tu stai in C e l'ultimo della B sta in B, caro Benevento, tu hai 22 punti sulla seconda e stai in B perché l'ultimo della Serie A deve stare in Serie A. Credo che strida un po' questo ragionamento. Pierluigi, come sai bene, molti l'hanno espresso, hanno detto anche a questi microfoni, sognano un Milan Monza derby a San Siro, no? Sì, no, certo. No, ma insomma, il progetto è imprenditoriale, è forte, c'è anche una componente affettiva, come abbiamo sentito nella nostra copertina. Il Monza sta alla Serie C come il Benevento sta alla Serie B. Sono quelle situazioni di tale clamoroso vantaggio rispetto a tutte le altre squadre che rendono di assoluto buon senso il fatto, se non ci saranno le condizioni di ricominciare, di trovare delle formule. È chiaro che se il virus non ci darà tregua e quindi non si riuscirà a chiudere la stagione con il numero totale delle partite, con il format di tipo tradizionale, si dovrà trovare un compromesso di buon senso, e il buon senso dice che questo diritto, il Benevento in B e il Monza in C, se lo sono guadagnato, insomma. Poi per carità, 16 punti possono anche essere recuperati, o i 20 del Benevento in Serie B, ma insomma la logica va da questa parte. E quanto conta, volevo chiedere a Galliani, l'aspetto della comunicazione, cioè quanto è importante, secondo me molto, che i calciatori, adesso ci stanno le schermaglie, fanno parte delle trattative, per carità, ma che insomma questa storia, questa contrapposizione, questa dialettica fra società e associazione calciatori finisca bene, perché insomma io dico spesso, il calcio non è soltanto un'industria, è anche una grande industria, ma è anche qualcosa di diverso, no? Da produrre bulloni o marmitte, si comunica con la gente, si gioca con le passioni della gente. Quanto è importante, quanto i calciatori devono capire che è una partita importante per loro in questo momento, non riguarda solo i soldi, ma riguarda la loro propria credibilità, ma agli occhi del paese. Io credo che lo debbano capire i calciatori e lo debbano capire i presidenti. Io ad esempio ho fatto una cosa, io intanto ho fatto sempre trattative nella mia vita, io ho iniziato costruendo un'azienda a Monza che si chiama Elettronica Industriale, che è l'azienda che poi creò le reti televisive di Canale 5, Italia 1, Rete 4. Io ho sempre fatto trattative e trattative aziendali e non ho mai avuto sindacati nelle aziende dove ho lavorato. Io ho fatto una cosa molto semplice. Ho deciso autonomamente, ovviamente informando il presidente Berlusconi, che avrei toccato gli stipendi solo della rosa della prima squadra e dell'allenatore in prima. Attenzione bene, nessuno dei dipendenti del Monza e dello staff che non sia l'allenatore in prima ha avuto un euro di riduzione. Questo è molto importante. Quindi secondo equità, secondo quello che io pensavo fosse giusto, ho tagliato del 50%, mi hanno detto di sì a coloro i quali noi riteniamo in buona fede che la riduzione non gli provocasse nessun danno particolare. Nessuno degli altri, tutti i dipendenti e tutti i membri dello staff e tutto il settore giovanile e quant'altro, non gli abbiamo ridotto niente. Questa è una cosa che non è mai apparsa sui giornali, ma così è stato. quindi è stato ridotto del 50%, il giocatore è andato di sì un minuto dopo, il giocatore del Monza ovviamente guadagna una cifra media molto superiore alla media di quelli della Serie C, hanno dato di sì, ma io non l'ho chiesto al massaggiatore, non l'ho chiesto a chi fa altre cose, non l'ho chiesto a chi guadagna delle cifre per cui guadagnare la metà gli potesse provocare problemi per andare nei supermercati, perché insomma ci hanno insegnato da bambini tutti i nostri genitori a comportarci bene e cerchiamo di fare questo. Quanto... Io non penso che si possa fare anche all'interno di una stessa squadra che si possa fare la stessa percentuale. Mi spiace citare Cristiano Ronaldo, che ammiro come ammiro la gestione della Juventus, ma non puoi trattare Cristiano Ronaldo come il giocatore della Juventus Under 23. Io credo che bisogna, secondo ragionevolezza, parlare con tutti e dico: caro signore, tu guadagni 20 milioni all'anno o 30 netti e ne perdi il 30%, tu ne guadagni 100.000, non perdi niente, o ne perdi il 5%. Insomma, questo è, secondo me, questa storia qui, togliamo il 4 mesi, 2 mesi a tutti, tagliamo qui, eccetera, non puoi farlo, perché lo fai anche al massaggiatore di una squadra di Serie C, lo vuoi uccidere, non è possibile. Io a questo proposito sto pensando, questo decreto pure Italia così sbandierato, così che meraviglia, 600 euro a chi guadagna meno di 10.000 euro lordi, siccome sono 50 milioni, anche qui si fa fatica, i giornali, secondo me, approfondiscono pochi problemi. Allora, il decreto cura Italia sono 50 milioni. 50 milioni a 600 euro al mese vuol dire che solo 83.000 persone possono avere 600 euro per un mese, poi è finito, ci sono finiti 50 milioni. Perché se si fa 83.000 per 600 euro sono 50 milioni. Bene, a ieri erano già arrivati 105.807 domande. Quindi 83.000 persone per su 105.000 che sono arrivati in un giorno avranno 600 euro, ma per un mese, e poi il secondo mese cosa facciamo, il terzo mese cosa facciamo, il quarto mese cosa facciamo? Queste sono le famose posizioni dei giocatori dilettanti, dei collaboratori, di tutti coloro che guadagnano meno 10.000 euro. Mi hanno insegnato la solidarietà quando ero ragazzo, e quindi bisogna seguire questi criteri qua. Quindi... non può Cristiano Ronaldo avere la stessa percentuale di riduzione di un signore che guadagna 10.000 euro all'anno. Quindi la posizione della Lega... Mi pare di poter dire, Carlo, mi pare di poter dire che Galliani ci stia dicendo, ed è un uomo che ha contribuito a costruire e a sviluppare questo tessuto, che davanti a questa crisi si è dimostrata antistorica l'esistenza stessa del sindacato calciatori, ma forse anche della Lega di Serie A, perché non si può mettere insieme, anche stando in Serie A, ad esempio, la ricetta per il Lecce e la ricetta per la Juventus, prendendo i due poli opposti. Sì, ma poi, insomma, mi sembra che per una volta la Lega si è trovata unita, e questo è un precedente che non ricordi, si è trovato unita su una posizione che non è stata considerata ammissibile dall'Associazione Italiana Calciatori. Ma io non voglio mai fare il professore, io ho fatto presidente della Lega Calcio fino al 2006, poi arrivò l'anno di Calciopoli, di cui stenderei un velo pietoso, quindi io mi dimisi nel 2006, non faccio più presidente della Lega, quindi non voglio insegnare niente a nessuno. Nella mia testa, se fossi il presidente di Lega, direi cosa penso. Poi ho fatto l'amministratore delegato del MIA fino al 2017. Quando esco da un posto, per regola di vita, non commento mai le decisioni altrui. Qui io sto parlando con l'amministratore delegato del Monza. Se l'amministratore delegato del Monza ha preso la decisione, sempre concordata con Silvio Berlusconi, di tagliare gli stipendi solo oltre un certo reddito, a quelli sotto non gli ho tagliato una lira, perché così mi hanno insegnato quando andavo all'oratorio a Monza da ragazzino. Altro fronte importante che condivido con Pierluigi Pardo, essendo parte in causa per vari motivi, quello delle televisioni, perché c'è da incastrare anche questo tassello, no, che riguarda marginalmente la Serie C, che riguarda in maniera stringente la Serie A, Pierluigi. Sì, sì, ma io allargherei il discorso al calcio che verrà. È chiaro che è molto difficile perché gli stessi virologi non hanno ancora le idee chiare e dipenderà molto da vaccini e farmaci. Ma Adriano Galliani riesce a immaginare il calcio del dopo coronavirus? Che tipo di impatto ci sarà dal punto di vista degli sponsor, delle televisioni, E come, perché tanto un equilibrio bisognerà ritrovarlo, no? Cioè, la passione per il calcio non finirà, il calcio non finirà, ma che tipo di equilibrio nuovo sarà possibile? Ma io lo vedo molto chiaro nella mia testa, poi posso sbagliare, ma voi avete la bontà di voler sentire cosa penso e io ve lo devo dire. Allora, io sono un fautore di concludere questo campionato anche fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi, cioè condivido completamente la posizione di Gianni Infantino, che è una persona per bene, che conosco da una vita, che conosce molto bene il calcio. Che cosa voglio dire? Che se questo campionato non è un problema del Monza, perché il Monza in un modo o nell'altro farà la Serie B, è impossibile al mondo che chi è, quindi non è un problema di Monza, io credo che il Monza farà la Serie B perché non puoi lasciarlo in Serie C. Io invece dico questo: gli inglesi sono più bravi di noi, perché gli inglesi secondo me sono più bravi di loro. Io conosco allenatori che sono in Inghilterra, giocatori eccetera eccetera, e hanno fatto un ragionamento molto semplice: se il campionato finisce noi perdiamo, abbiamo tutti i ricavi dagli sponsor e tutti i ricavi dai diritti televisivi, perdiamo solo il pubblico, quindi il danno totale sarà massimo 10%, vi togliamo il 10%. Se il campionato non finisce più, noi perdiamo i diritti televisivi e una parte di sponsorizzazione, il danno sarà meno del 30-40%, quello vi toglieremo. Questo mi sembra un ragionamento logico e normale. Per ritornare alla domanda, che cosa vedo? Vedo una stagione che si concluderà in autunno senza pubblico, e vedo, ma con tutti i ricavi dalle sponsorizzazioni, dai diritti televisivi, vedo una prossima stagione senza pubblico, se non tutto l'anno quasi. Credo che sia arrivato l'ora di cambiare la legge Melandri, perché in questo momento di difficoltà non si può pensare di vendere il triennio 21-24 e farsi impiccare dalle pay TV, quindi bisogna, e io mi sto anche muovendo politicamente, perché bisogna cambiare la Melandri, e se serve la Serie A anche vendere un anno solo, perché se vendi il triennio in questo momento vendi un qualche cosa che è svalutato dovuto all'economia in crisi del mondo, ma nel mondo si riprenderà, si impiegherà un anno, ce ne impiegherà due, ce ne impiegherà tre, non lo so quanto, ma si riprenderà. Ma comunque i ricavi da calcio, certo, il calcio a porte chiuse è terribile, però il porte chiuse consente alla società di non fallire, se si chiude tutto saltano tutti. Questo non volere andare avanti dopo il 30 giugno, che guarda caso arriva da chi, dalle ultime 6-7 in classifica, per paura di retrocedere, perché qui non ci sono i buoni e i cattivi. Nel film I tre giorni e il Condor mi ricordo Robert Redford che non sa a chi sparare perché non sa più chi sono i buoni e i cattivi. Adesso ci sono i buonisti che vogliono salvare gli italiani, in verità vogliono salvare la loro pelle per non retrocedere, i cattivoni che vogliono andare avanti. E quindi è uno schema un po' troppo basico, un po' troppo semplice, non è tutt'altro che sorprendente, eh? Non è anche un po' demagogico, eh? Sì, ma un po', no, ma tutti, questo vuole finire, quell'altro vuole andare a quello che vuole finire, in verità vuol chiudere il campionato così non retrocede. Voglio dire, non è che ci vuole Einstein, diceva mia nonna, per capire queste cose qui. Se i campionati finiscono, le perdite saranno, non dico di lieve, ma di bassa entità. Se i campionati non finiscono, esplode tutto il meccanismo. Io poi farei addirittura delle cose avveniristiche. Nel 22 si giocano i mondiali tra novembre e dicembre. Puoi anche pensare di giocare il 21 e il 22 ad anno solare, come si gioca in Sud America. Cioè, non è che ci vuole essere, anche qui richiamo sempre la mia nonna Dina Marconi, allora tanti anni fa Guglielmo Marconi era considerato il più intelligente che circolava nel globo terracco. Quindi tu puoi far tutto, chiudi questo campionato qui in autunno, bene, fai il campionato del 21 nell'anno solare e il 22 pure lo finisci quando cominciano i mondiali, tanto devi interromperti, fai la pausa estiva di un mese perché ci sono gli europei. Insomma, io credo che ci vuole anche qualcuno che abbia un po' di innovazioni, un po' di intuizioni, un po' di savoir-faire, un po' di know-how, usate la lingua che volete. Se si giocasse come si gioca in Brasile, in Argentina, eccetera, eccetera. Apertura clausura. A febbraio. Ma no, apertura clausura. Non c'è più in Argentina l'apertura clausura. Campionato, anziché giocarsi da settembre a maggio, si gioca da febbraio a novembre. Non succede proprio niente. Succede che poi vai a farti i mondiali nel 22. voglio dire, ci sono tante cose che si potrebbero fare che non vedo dalla lampada di Aladino, non vedo Aladino. Senta, ma quanto ci pensa, a proposito del discorso di qui sopra, quanto ci pensa al giorno in cui ci sarà il derby a San Siro, Milan-Monza? Se ma sarà no, San Siro? No, adesso no, prima pensavo a Milan-Monza, adesso penso vivendo a Milano, essendo nato a Monza, tutti i morti che ci sono a Milano, che ci sono a Monza. Io ogni giorno sto lì, ma ho anche qualche notizia qualche minuto prima, eccetera, eccetera, e vedo sempre questo numero terrificante. E poi sono meno contagiati, sono meno di qui, sono meno di là, ma i morti continuano a contare un numero di morti pazzeschi, e la metà dei morti italiani sono nella regione Lombardia, perché il dramma, io sono lombardo, evidentemente che il 50% circa dei morti Italia sono in Lombardia, quindi noi siamo proprio nel cuore della così di questo dannato virus. Quindi adesso penso poco davvero francamente a Milan-Monza. Ci crediamo, Giovanni? Sì. No, ci crediamo assolutamente, perché chiaramente, ma vale anche per noi, vale per tutti quelli che in qualche modo ruotano intorno al mondo del calcio. È chiaro che tu ragioni di quella che tratti in questo momento più che per come una passione, come una filiera industriale, come un settore economico, e quindi fai ragionamenti e ti portano a dire, e l'ho detto benissimo prima Adriano Galliani, che in qualche modo bisogna arrivare in fondo. La cosa, e poi dopo c'è invece la sensazione che ti porta a fare tutt'altri ragionamenti. La cosa che mi colpisce, che in parte Galliani ha detto, è che quest'idea è condivisa più o meno ovunque, chissà perché in Italia non ce la facciamo, cioè dalla FIFA all'UEFA, tanti campionati che stanno studiando giorno e notte come ripartire appena sarà possibile, noi arriviamo e ci arriviamo poi divisi da piccole cose che si cercano di difendere, e questa trovo che sia veramente, per restando al mondo del calcio, insomma, la scena più deprimente di tutte. Evidentemente, siccome le retrocessioni ci sono anche in Inghilterra, andiamo in Inghilterra, voglio dire, e quindi tre squadre della Premier League finiranno in Championship, voglio dire, però continuano a dire tutte andiamo avanti, chi sta in fondo alla classifica si ferma perché è nobile d'animo. Allora, i campionati, siccome non possono, sono delle SPA le società di calcio. I campionati non finiscono, i campionati possono ricominciare fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi, mancherebbe altro. Sarà il governo che ha ascoltato la comunità scientifica, darà i tempi, non può darli neanche la FIGC secondo me, che può dare i tempi alla ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica, non può essere il governo e io faccio parte dell'opposizione, non sono del governo come tutti, come ben sapete, però spetta al governo, che è un governo legittimo che è in carica e deve prendere le decisioni, deciderà se si riprende tra 15 giorni, tra un mese, fra due mesi, fra tre mesi. Noi diciamo, così salviamo capre e cavoli, non giochiamo più, stiamo fermi prima cosa, e i club italiani perderanno 600-700 milioni, tenuto conto che hanno qualche miliardo, non voglio qui fare Pierino più intelligente della compagnia. Come hanno un certo tipo di indebitamento, secondo me il calcio italiano salta per aria, perché le pay TV non è l'ultima rata, perché le partite giocate sono molto di più dell'ultima rata, quindi arriverà una richiesta di addirittura restituzione largo alle pay TV, dagli sponsor eccetera, e salta in pari il meccanismo. Quindi non è che voglio ricominciare domani, sono mica matto. Se si dice, la comunità scientifica dice che si ricomincia fra due mesi, io ricomincerei fra due mesi. Quindi non è che dico giochiamo e mettiamo a rischio nessuno. Io dico giochiamo quando si potrà giocare, ma finiamo i campionati, perché così facendo c'è il minor danno possibile. È strano che questa cosa l'ha capita la FIFA, l'ha capito l'UEFA, l'ha capito le leghe spagnole, inglese, eccetera, eccetera, e non la Lega italiana. O quantomeno non si legge la Lega italiana. Io non voglio, ripeto, non faccio parte della Serie A, quindi non so la Serie A, so quello che leggo sui giornali o qualche presidente che mi informa. Ma non, per il mondo del calcio non si può a tempo debito non ricominciare il campionato. Ma un mondo che è profondamente diverso, ma che nel cuore ci sta, come quello del basket, era chiuso. Ed era logico che chiudesse, si trattava soltanto di aspettare la ratifica che è arrivata da Petrucci. Questa situazione invece come la valuta? Ma la valuto, io sono un grande appassionato di basket, anche qui sono stato tanti anni nel consiglio delle Olimpie. Qui la situazione non aveva alternative, i giocatori di basket sono quasi tutti americani e sono ritornati al loro paese, non ci erano più i giocatori. Quindi non c'è paragone tra il basket e il calcio. E parlo di uno sport che amo pazzamente, perché oltre al Monza e al Milan non perdo mai neanche una partita dell'Armani se sono a Milano. Quindi qui non ci sono proprio più i giocatori. Uh-huh. I giocatori di basket, voi vedete che nel quintetto che parte non si vede un italiano praticamente. Quindi dove vai a rincorrere i giocatori? Non ci sono più. No, le squadre erano state già smontate, quindi c'era non ci sono più le squadre, fai giocare chi? Gli juniores? Chiaro, erano state smontate già, era già finito di fatto, si trattava solo di aspettare la ratifica. Esatto. Io, Pier, volevi chiedere ancora qualcosa? Adriano Galliani. No, mi sembra condivisibile, mi sembra soprattutto condivisibile il richiamo ovviamente alla comunità scientifica, perché sarà il virus, saranno gli scienziati a dirci quando si può ripartire, ma è evidente che non ci possiamo permettere, può essere fra un mese, cambiando poi il calendario dell'anno successivo, non ci si può permettere, su questo non c'è dubbio, non ci si può permettere di perdere un giro per motivi economici, ma perché poi non c'è più il calcio, cioè per come l'abbiamo conosciuto. No, quindi... io volevo se possibile invece chiedere anche per finire un commento su una voce che è estremamente fuori dal coro in questo momento, cioè fuori dal coro, quella di Lotito, lo sentiamo e poi le chiedo un commento a proposito della spinta verso la ripresa per prima cosa degli allenamenti. Lotito. Nessuno vuole prendere sotto gamba l'interesse della salute dei cittadini e in particolar modo nel caso di un presidente della squadra, dei propri addetti ai lavori. Io quello che ho sempre sostenuto che tutte le attività lavorative, che oggi più o meno stanno qualcuna anche nel nord, alcune fabbriche stanno riaprendo, se in deroga con l'autorizzazione dei prefetti, possono essere espletate purché siano muniti di tutti i mezzi di prevenzione. Cosa ne pensa della posizione di Lotito? La posizione del Tito è corretta dal punto di vista istituzionale, però il calcio è uno sport di contatto fisico. Io non mi stupirei una partita, io sono tifoso di tutto, quindi sono tifoso pazzo anche di Djokovic, che è qui in casa mia, in questo momento sto vedendo la maglietta con cui ha vinto Wimbledon l'anno scorso. Allora, per assurdo, io vedrei una partita di tennis, uno sta di qui, uno di là, o il golf o degli sport. Non riesco a capire, per poter giocare, quando si gioca si va in contatto fisico. Nelle fabbriche normali si sta lontani, si sta con le mascherine. Nel calcio ci si avvinghia uno con l'altro, ci si attacca uno con l'altro, c'è contatto fisico. Insomma, io sono d'accordo di cominciare prima che si può, ma lo devono stabilire la comunità scientifica. La vedo dura, non è una fabbrica. Io sto qui e il mio collega di fabbrica sta a 2 metri da me, 1,5 metri. Sui calci d'angolo cosa facciamo? Ci mettiamo uno, ognuno, oppure giochiamo calcio dicendo che non si può stare a meno di 2 metri uno da un altro. Al Bayern hanno ripreso gli allenamenti ma vietando i dribbling. Ecco, devi apprendere l'allenamento, ognuno si allena per conto proprio, ma non puoi fare la partitella, non puoi fare niente, perché sennò vieni in contatto con l'altro. Quindi è la tipologia di sport del calcio che secondo me è impossibile. Quindi Claudio dice... Bene che lavorano, c'è aperte anche questo, ma questo è un lavoro che prevede il contatto fisico, voglio dire, no? Come fai? Impossibile. Sì, aggiungerei che anche da un punto di vista di comunicazione, il legittimo e condivisibile, anche io lo condivido, desiderio della Lazio di ricominciare la stagione e di finire la stagione per tutti i motivi che secondo me giustamente diceva Galliani, ecco, dal punto di vista della comunicazione questa richiesta a gran voce in un momento come questo rischia di essere stonata e di essere travisata. Per cui che Lazio abbia voglia di giocare ci sta, è sano, normale e io lo condivido al 100%, però insomma aspettiamo secondo me ancora qualche giorno, qualche settimana se sarà necessaria e poi facciamo di tutto per finire la stagione, su questo non c'è dubbio. Io capisco molto bene la Lazio, che se per caso non avessero giocato la partita Parma-Spal a mezzogiorno non si giocava la sera, Juventus-Inter e la Lazio era prima in classifica, quindi siamo tutti uomini di mondo e quindi tutti capiscono tutto. Bisogna fare un'altra cosa, bisogna dire a tutti, così la smettono tutti, il campionato finirà quando ricomincerà lo decide la comunità scientifica e si acquettano tutti. Basta dire una volta per tutti, ma sì, la Lega non può farlo perché gli ultimi 6-7 in classifica urlano perché vogliono rimanere in A e non andare in B, come dovrebbero andare tre di loro. Perché se tu dici il campionato di calcio lo concludiamo, quando lo concluderemo lo stabiliscono quello che ha detto Gianni Infantino. Basta dire questa cosa qui, si acquettano tutti. Il voler ricominciare chi vuol vincere lo scudetto, il non voler ricominciare chi non vuole andare in Serie B. Grazie. Sì, devo grazie. Dire, è un non so se dobbiamo andare. Sì, dobbiamo andare alla borsa. Siamo già in ritardo, chiedo scusa. Vabbè, però allora, ringrazio. Ripartiamo da qui dopo. Ringrazio di cuore Adriano Gagliani. Grazie davvero. Torni a trovarci, Certo. Grazie mille. Sono 24 ore il mio giornale, primo che leggo ogni mattina da quando ero ragazzo. Mille prima grazie. Della Gazzetta. Prima della Gazzetta. Con la Gazzetta. Sempre i primi due sono sempre Gazzette sole o sole Gazzette. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie. Borsa, scuso per il ritardo, torniamo subito dopo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. No sé si Messi se irá o no se irá del fútbol español. Yo creo que no se va a ir del fútbol español. Pero sí lo que puedo decir es que esa no es la solución para que el fútbol italiano salga de la crisis que tiene, ¿no? El nivel de endeudamiento del fútbol italiano, con su cifra de negocio, con lo que ingresan todos los clubes, es muy elevado. Es prácticamente el doble de lo que tiene España, el doble de lo que tiene la Bundesliga, con menor cifra de negocio. Eso hace que su situación, la economía de la Serie A italiana en global, sea mucho más complicada que la situación de la española o la situación alemana, ¿no? Evidentemente, la solución no está con fichar a Messi. Beh, ieri ha parlato tra gli altri anche Tebas con questa intervista che ha fatto abbastanza rumore. Anche in Spagna ovviamente si pensa a riprendere, c'è anche lì, c'è il balletto delle date come da noi, cioè tra il 26 di maggio e il 6 oppure il 28 di giugno nella peggiore delle ipotesi. Poi Tebas ha detto molte altre cose, tra le quali: beh, messe in Italia ve lo scordate, non ve lo potete permettere, avete troppi debiti, non siete all'altezza di poter ingaggiare uno come Messi. Pierluigi Parlo, ci sei? Sì, sono qui. Eccolo qua. Ci stiamo collegando anche con Filippo Maria Ricci dalla Spagna, che non so se è già collegato oppure no. Non ancora, ma lo faremo tra poco. Abbiamo sentito prima Adriano Gagliani la sua proposta, cioè si riprende quando si riprende questo campionato. Basta dire di sicuro continueremo a giocare questo campionato fino alla fine di questa stagione, quando sarà, insomma, è un'ipotesi abbastanza di avanguardia, no? No, ma secondo me è un'ipotesi giusta. È chiaro che di tutte le cose che ho sentito Adriano Gagliani è suggestiva anche l'ipotesi di passare poi dopo al campionato su anno solare, però alla fine di questa situazione comunque rischieresti di perdere un anno, rischieresti di perdere una stagione, perché è chiaro che se tu ti prendi tutta la seconda parte del 2020 per finire il adesso non metto gli acqua ossigenata, mi farà malissimo, mi sono colpito di piedi, vabbè, niente, piccoli infortuni domestici, niente di grave. Riesci infortunati anche a casa, sì, adesso lo dico allo titolo, lo dico subito allo titolo. Va bene, a parte un'allusione, una botta, è proprio niente, veramente niente. No, stavo dicendo, è chiaro che poi alla fine rischi di perderti comunque una stagione, no? Quindi nel senso che se ti prendi il 2020 per finire questo campionato, faccio per dirti, e poi fai 2021-2022 con l'anno solare, alla fine comunque un anno ti manca, o stai fermo 5 mesi o comunque da qualche parte dovrai recuperarlo. No, però secondo me il principio è giusto, e soprattutto è giusto il principio, che era quello che volevo dirti prima di andare alla borsa, che la comunità scientifica in questo caso e il governo prenda delle decisioni, perché gli spettacoli meno belli che il calcio italiano ha offerto ultimamente sono stati, non è per giustificarli, ma sono stati fatti anche perché avevano un margine di discussione. Allora è chiaro che se c'è un margine di discussione sul fatto di quando riprende il campionato, ognuno dice quello che gli fa più comodo, come nella famosa discussione su Juve-Inter, porte aperte, porte chiuse. Sì, dico Juve-Inter per schematizzare, ma in realtà c'erano dentro anche le altre partite, no? Porte aperte, porte chiuse, Coppa Italia, eccetera. È chiaro che se tu lasci ai dirigenti sportivi un margine di intervento e di discussione su tutto questo, insomma, non è che ognuno decide, ognuno prova, insomma, a spostare la discussione sul lato che gli piace di più a seconda di quelli che sono i suoi interessi. Per cui ci sta che chi in questo momento magari ha paura di retrocedere in Serie B abbia meno voglia di giocare di chi sogna di vincere lo scudetto. Certo, questo è normale ed è legittimo, ma appunto per questo ci deve essere il governo che dice alla federazione: guardate, voi ricomincerete a giocare a pallone quando ve lo dirò io, com'era quella vecchia cosa, quando ve lo dirò io, cioè quando ve lo dirà la comunità scientifica, anche perché da questo punto di vista la supremazia totale della scienza è indiscutibile. Sì, non loro c'è dubbio. Decidono. Ma vorrei capire se anche in Spagna, e saluto Filippo Maria Ricci, c'è un fronte così diviso su ovviamente un interesse particolare. No. Ciao Fil. Intanto buon pomeriggio. C'è enorme divisione tra le parti, diciamo che è una lite da cortile continua tra Liga, Federazione e sindacato. Però litigano su qualsiasi cosa, ma non sul patto che si debba tornare a giocare. quello sono tutti d'accordo, poi bisogna litigano sul come. Per esempio c'è questo protocollo sulle 48 ore o 72 ore tra una partita e l'altra. Però è tutto molto molto prematuro. Però tutti, il senso è tutti d'accordo sul fatto che si ricomincia quando sarà e si finisce quando sarà. Esatto, sì, no, su quello fronte unito bisogna ricominciare, però non si sa bene quando. Noi appunto abbiamo l'emergenza fino al 26, le cose vanno un pochino meglio, però siamo ancora, secondo me siamo più indietro che rispetto all'Italia. E ieri io ho parlato con Tebas, lui dava tre date, no? 28 maggio, 6 giugno o addirittura 28 giugno, quindi insomma... Però diciamo sul grosso del discorso. Se Giovanni viene da dire beati loro, se sono d'accordo almeno sul finire la stagione. Sì, beati loro. Intanto, se vuoi, ti do due notizie dal paese reale, sempre calcisticamente parlando. La prima è che il Napoli ha messo in cassa integrazione gli impiegati amministrativi fino al giorno in cui non riprenderanno almeno gli allenamenti. E la seconda, pochi istanti dopo la fine della nostra chiacchierata con Adriano Galliani, che la Lega di Serie C insieme all'Asso Calciatori ha mandato una supplica, non saprei definirla diversamente, al governo perché estenda la cassa integrazione anche ai calciatori di Serie C con redditi sotto i 50.000 euro, che abbiamo sentito prima da Galliani essere praticamente la quasi totalità dei calciatori di Serie C, e che sono di fatto dei lavoratori come tutti gli altri, anche se capisco che in questo momento possa essere poco popolare immaginare che solo, un calciatore di qualunque livello faccia la cassa integrazione. Non solo sono lavoratori come tutti gli altri, ma sono anche lavoratori che per la natura della loro attività, fra 5, 10, 2, 3 anni, a seconda della loro età anagrafica, dovranno cercarsi un nuovo lavoro, perché chiaramente non è che può fare il calciatore a 60 anni. Quindi è un'attività che di per sé è un'attività molto breve. Poi è chiaro che a livello di elite si riescono a guadagnare delle cifre folli che passano per le generazioni, per le 10 generazioni successive. Ma a livelli bassi, insomma, fra 50.000 euro guadagnati da una persona che ha un posto fisso, tanto per capirci, in un anno, che a meno di spaceli e cataclismi quel posto lo conserverà, e un calciatore che invece fra 5 anni o fra 2 anni dovrà reinventarsi, è ancora ha maggiormente bisogno di come è stato, quindi... sottolineato da qualcuno, volendo parametrarla sul lavoro di chiunque altro di questi giorni, a marzo erano in smart working o in malattia, fai tu, e ad aprile sono in ferie obbligate da godere, però insomma la situazione è più o meno quella. C'è un ascoltatore che mi scrive, Filippo, facendo il verso di Tebas: non possiamo permetterci né Messi né il MES. Roberto da Vicenza. Sì, no, Tebas ieri è stata fatta dal collega dell'ANSA una domanda su Messi, e lui sì, ovviamente difende il sorticello, dice: non solo non è Messi che risolverà i problemi del calcio italiano, perché sono legati, no, a un grosso indebitamento e a uno scarso fatturato, no? Non ha detto soprattutto in confronto, diciamo, nei confronti della Spagna, però insomma l'idea era quella, e dice sì, e comunque dice, poi ha fatto anche lui è così, e dice: se n'è andato Ronaldo ce l'hanno dato per morti, invece andiamo benissimo, insomma io preferisco tenerlo, però se anche se ne dovesse andare la Liga è più forte dei suoi campioni, e questo è così, però vedremo, insomma adesso è difficile, appunto non sappiamo nemmeno quando torniamo a giocare, Adesso no, anche ieri mi è sembrato interessante, no, la posizione della FIFA, allungano i contratti, i prestiti, tutto quanto, insomma, è tutto, stanno saltando anche proprio le date, le regole a cui eravamo abituati finora, per cui vediamo, io l'importante è che le cose vadano meglio, perché se le cose vanno meglio vuol dire che potremo tornare a parlare di calcio giocato e così, e non di ipotesi. Tutto certamente, traffico, e poi appunto approfondiamo la posizione della FIFA, di Infantino, sono stati tolti tutti i paletti, tutte le restrizioni, tutti gli ostacoli anche giuridici, e non erano banali, che c'erano da qui alla fine della stagione, che finisca quando finisca, dice la FIFA. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque Giovanni, aiutami a spiegare, c'erano paletti, ostacoli di varia natura, giuridica, legale, amministrativa, eccetera, che riguardavano contratti, prestiti, come ostacolo teorico da qui alla fine della stagione, ieri Infantino ha spianato tutto col bulldozer. Sì, ha spianato tutto, che significa che si può andare oltre il 30 giugno, che ci si può andare in deroga a contratti, prestiti e a qualunque tipo di vincolo esista, passato, presente, futuro, tra i calciatori e i club, che avrà sempre la prevalenza il club che deve finire l'attuale stagione, e quindi anche se ciò accadrà dopo il 30 giugno potrà tenersi un calciatore fino all'ultima partita, e qualunque contratto già sottoscritto, a meno di accordi diversi, diventerà operativo ed effettivo dal primo giorno successivo, che saltano, ma questo già lo sapevamo, delle finestre FIFA internazionali per le nazionali, che i club in questa fase di emergenza possono non rilasciare i propri calciatori alle nazionali, anche banalmente per questioni di sicurezza, oltre che di affollamento del calendario, che ci sarà un mercato che verrà modellato sulle esigenze delle diverse federazioni. Questo forse è il passaggio un po' più complesso, però fondamentalmente significa che ci potrà essere un mercato anche aperto fino al 31 dicembre, non oltre le 16 settimane per ciascuna federazione, ma in modo da riuscire a seguire l'andamento del calendario così come verrà disegnato. Io credo che non sia questo l'ultimo documento prodotto dalla FIFA, probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ne avremo anche altri. Il significato di questo documento è un significato politico, cioè è togliere munizioni alle armi di chi vorrebbe sospendere, in Italia ne abbiamo parlato prima con Gagliani, magari in giro per il mondo c'è qualcun altro, di chi vorrebbe sospendere il calcio adesso senza provare a tenere in vita questa stagione. Ecco, togliendo tutti i paletti, fondamentalmente la FIFA toglie munizioni a queste armi, cerca di portare avanti, secondo me facendo un ragionamento corretto, che è quello, sì, che faceva, certo, prima Gagliani. Certo. Questa è una piramide che si salva se vanno in fondo le stagioni delle competizioni domestiche, quindi diciamo dei campionati, poi a cascata di tutto il resto. Però, altrimenti diventa un problema per tutti. Vista così, rimane, volevo sentire la vostra opinione, un'ultima invisibile barriera, che è quella della entro quando. Hai un'idea, Filippo? No, sinceramente no. A questo io aggiungerei una piccola cosa, perché per esempio qua il sindacato calciatori spagnoli si è lamentato un po' di questa posizione della FIFA, perché secondo loro valgono le leggi vigenti a livello lavorativo di ogni paese, no? Per cui loro sostengono che la FIFA non può avere la potestà su contratti firmati, in questo caso in Spagna. In realtà mi sembra che per statuto la FIFA quella potestà ce l'abbia, però ecco, ci potrebbero essere ovviamente discussioni. E in tutto questo però non posso, ecco, rispondere in maniera diretta alla tua domanda. No, ma anche perché mi sembra che l'ultima barriera, riprendendo per quanto diceva Gagliani prima, si finisca quando si finisca, però grosso modo un'idea su un ipotetico termine della stagione è l'ultimo ostacolo che resta. Sì, ma tutto si può fare, la verità è che è talmente eccezionale la situazione che se si vuole tutto si può fare, già giocare a porte chiuse che è una cosa che purtroppo diamo abbastanza per scontata, soprattutto al ritorno in campo è chiaramente una roba bruttissima, però io sono dell'idea che piuttosto che niente è meglio piuttosto, no? Quindi ripeto, secondo me qui l'unico vero elemento di incertezza è nel virus e nei tempi, perché questa è veramente la cosa che noi non conosciamo, non sappiamo come sarà la coda del virus, cioè non sappiamo se passata questa ondata in Italia e poi negli altri paesi che hanno una, due, tre settimane di ritardo rispetto a noi, si tornerà a una vita pseudo normale, se avremo un kit farmacologico, almeno di procedure che possano rendere le persone un po' più tranquille per fare una vita normale, perché altrimenti è vero quello che dice Galliani, cioè non ti puoi nemmeno allenare a distanza di un metro, come fai a stare a distanza di un metro su un calcio d'angolo o su una mischia in area di rigore? Quindi è chiaro che è però insomma io credo che alla fine si troveranno delle soluzioni da questo punto di vista e si ricomincerà la stagione, se sono d'accordo, va finita, bisogna fare di tutto per poterla finire, perché l'impatto economico è può essere devastante, può essere una deflagrazione mai vista, perché se anche se tu costringi le televisioni in punta di contratto, in punta di diritto a pagarti, e poi però fra un anno queste devono rifare il contratto, con quali soldi? Cioè prima o poi questa roba qui la paghi, puoi pensare di non pagarla. Insomma, c'è un'altra cosa interessante che ha detto Galliani, condivisibile, a proposito dei diritti televisivi. Come sapete, questo 2020 dovrebbe essere l'anno solare in cui i tender, cioè i bandi sia della Champions League che della Serie A 2021-2024 dovrebbero essere portati per l'asta. E lui ha fatto questo ragionamento sulla possibile proroga di un anno, secondo me non è sbagliato, a patto ovviamente che i soggetti che hanno acquisito questi diritti siano disponibili a pagare, perché se vai a vendere oggi in questa situazione di incertezza e di panico i diritti televisivi 2021-2024 del campionato della Champions League, ma questo vale per tutto, vale anche in Spagna e in tutti gli altri paesi, diciamo che il potere contrattuale non è il massimo. Oggi chi è che viene in un momento come questo, come puoi pensare che già avevamo problemi in Italia, no, nel riuscire a strappare, certo, una cifra superiore rispetto al passato, come fai in questo momento? Basso potere contrattuale, direi. Come minimo basso potere contrattuale. Che si arrivi al congelamento, comunque, insomma, una proposta, diciamo, difensiva per l'anno 2021-2022, ma questo forse anche per la Champions League, e poi si possa provare, idealmente, magari con un anno in più, a vendere il pacchetto dei tre anni successivi su cifre più alte, nella speranza che l'economia si riprenda. Tebas che dice sui diritti, Filippo? Ma lui dice appunto che bisogna la stagione va a finire, perché altrimenti lui sostiene, se ieri dava tre cifre per la Liga, se la Liga finisce qui oggi, la perdita secca per il calcio spagnolo è di 1 miliardo, se si dovesse giocare a porte chiuse la perdita sarebbe di 350 milioni, col pubblico sarebbe di 150 milioni. Per cui, e sui diritti televisivi la Liga deve ancora ricevere solo il 10%, però se non si dovesse giocare, oltre a non ricevere questo 10%, dovrebbe restituire un 18%. Per cui, insomma, stiamo parlando di grandi cifre, e quindi per lui non c'è altra soluzione che continuare, che provare a giocare in qualsiasi modo. E questo è normale. Poi per il futuro, adesso è prematuro appunto, no? Pensare a un bando oggi di un triennio, no? È impensabile, perché poi se si va avanti, per esempio, mettiamo che si va avanti a giocare a porte chiuse, anche televisivamente è un altro prodotto. Per cui insomma, vedremo se torniamo a giocare, se torniamo ad andare allo stadio, lo ripeto sempre. Lo ripeto sempre, una persona che ha lavorato, io non ho mai trovato nessun dirigente televisivo in questi anni che abbia preferito una partita a porte chiuse, perché magari qualcuno può pensare che la partita a porte chiuse, ma la partita a porte chiuse ti porta forse 40.000 dello stadio in più, ma ne perdi 10 volte tanto dal punto di vista proprio dell'appeal, della bellezza, dell'emozione, quindi non c'è nessun dirigente televisivo di quelli che ho incontrato in questi anni di carriera televisiva che abbia mai voluto giocare a porte chiuse o si sia mai sentito così ingolosito da questa prospettiva. No, la Liga, per vendere meglio i suoi diritti TV, obbligava, multava le squadre che avevano pochi spettatori, Certo. Questa è stata una delle prime cose che ha fatto Tebas. Però vedere il futuro del calcio come l'ha visto prima Galliani, cioè c'è da farsi venire i brividi, perché lui dice l'anno prossimo spettatori, fino all'anno prossimo scordateveni. Vabbè, per questo, cioè, però meglio come diceva Pier prima, bisogna giocare, però almeno, cioè, insomma, meglio piuttosto che niente, come ha detto Pier. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, Filippo, questione stipendi in Spagna invece. Ho letto prima una dichiarazione di Kroos che ha detto: no, i soldi al Real Madrid non li ridiamo, tanto sono già ricchi. Qualche, no? Diamo, toglieteceli pure, ma destinateli ad altri scopi. No, lui dice: se non devono essere tolti d'ufficio, voi ci dovete pagare, poi noi decidiamo cosa farci, no? E ognuno si assume le sue responsabilità, possiamo aiutare in tanti modi. Ed è uno, voglio dire, perché sennò lui sostiene, e la cosa ovviamente ha creato una certa polemica, dice: se adesso se ce li togliete d'ufficio, prendete o è un regalo al club, è comunque una donazione in vano, una donazione inutile. Insomma, se ne può parlare. Lui dice: no, sta alla mia coscienza, io dice guadagno tanto, sta alla mia coscienza poi impegnarmi in un modo o nell'altro con i soldi che decido io. E dice: non può essere una cosa di così arbitraria, perché tanto si aiutano solo i club, e lui lascia sottintendere club che comunque sono ricchi, perché ricordiamoci che Barcellona e Real Madrid sfiorano il miliardo di budget, insomma non è che stiamo parlando di entità, capito, di squadre di provincia. Questo è il suo discorso, insomma se ne può parlare, insomma, ecco. Altro argomento di discussione, vabbè ragazzi, è stato bello, adesso vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, grazie ovviamente a Filippo Maria Ricci e Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, Anita Panizza, Claudia Schiattone, Roberta Frisani, tutti convocati domani alle 14, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.